Londra 2012, i giochi della 30ª Olimpiade. Emozioni da vivere insieme qui su Radio 24. Ogni sabato e domenica mattina, dopo i GR delle 6 e delle 7, il GR Olimpico di Londra 2012. Interviste, approfondimenti, news sui giochi olimpici più attesi. E dal 27 luglio al 12 agosto, tutti i giorni in diretta da Londra per raccontarvi le medaglie, i trionfi, le storie dei protagonisti a 5 cerchi. Radio 24 a Londra 2012. Le Olimpiadi come non le avete mai sentite.